Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. Uno scalpellino era inginocchiato su una grande lastra di granito e con lo scalpello e il mazzuolo incideva una iscrizione nella pietra. Portava occhiali azzurri e mi fece venire in mente un mio conoscente quasi dimenticato che aveva un buon posto in una banca. Poco tempo prima l'avevo incontrato all'Oplandske Café. Fossi stato capace di vincere risolutamente la vergogna e di rivolgermi a lui rivelandogli la verità senza pudori, dicendogli che la mia situazione era disperata e che mi diventava difficile sopravvivere. Potevo cedergli l'abbonamento del barbiere. Per Diana, sicuro, il mio abbonamento. Quel foglietto valeva quasi una corona. Cercai ansiosamente il prezioso tesoro. Non trovandolo, subito mi misi a frugare nelle tasche col sudore alla fronte e finalmente lo trovai in fondo a una tasca insieme con altre carte bianche e scritte, tutta roba senza valore. Contai i tagliandi nuovi dell'abbonamento di sotto in su, di sopra in giù. Erano ancora 6. In fondo, che cosa me ne facevo? Era capriccio? Era una mia trovata? Certo, da qualche tempo non avevo più voglia di farmi radere. E mezza corona era un bell'aiuto, mezza corona di quelle lustre d'argento uscite dalla zecca. La banca chiudeva alle 6. Potevo dunque trovare il conoscente fra le 7 e le 8, davanti all'Oplandske Café. Che buona idea! Il tempo passava, il vento sibilava tra le foglie degli ippocastani, il giorno volgeva al tramonto, ma non era forse troppo poco offrire a un giovane impiegato di banca mezza dozzina di tagliandi per il barbiere? Lui stesso poteva avere in tasca 2 abbonamenti nuovi, molto più puliti del mio, chissà, e frugai in tutte le tasche per cercare qualche cosa da aggiungere, ma non trovai niente. E se gli avessi offerto la cravatta? Io potevo ben farne a meno. Bastava che mi abbottonassi la giacca fino al collo. Tanto dovevo farlo lo stesso, poiché non avevo il panciotto. Sciolsi la cravatta, un cravattone che mi copriva mezzo petto, la spolverai per bene e la avvolsi insieme con l'abbonamento del barbiere in un foglio di carta pulito. Poi lasciai il cimitero e mi diressi verso l'Oplandske Café. L'orologio del municipio segnava le 7. Mi trattenni nei pressi del caffè, passeggiai su e giù lungo la cancellata e osservai attentamente chi entrava e chi usciva. Infine, verso le 8, vidi arrivare quel giovane, fresco ed elegante. Il cuore mi palpitava nel petto come un uccellino in plume. Senza salutare, abbordai il giovane piuttosto sfacciatamente. «Caro amico, mi occorre mezza corona, ecco qui un pegno, una garanzia!» E gli misi in mano il piccolo involto. «Non ho nulla», rispose. «In verità non ho il becco di un quattrino». E mi mostrò il borsellino vuoto. «Ieri sera sono uscito e mi trovo liscio liscio, credetemi, non ho neanche un centesimo». «Capisco, caro amico, vi credo», risposi convinto. Egli non aveva nessun motivo di mentire per una simile inezia. Mi pareva anche che i suoi occhi azzurri si inumidissero mentre frugava nelle tasche e non trovava niente. Io mi tirai indietro. «Scusate tanto, sto attraversando un momento di imbarazzo». Ero già arrivato alla cantonata allorché quello mi richiamò per l'involto. «Tenetelo, tenetelo pure!» esclamai. «Ve lo lascio volentieri. Una cosa da niente. Su per giù tutto quello che possiedo in questo mondo». E mi commossi delle mie stesse parole. Avevano un suono così disperato nell'ombra del crepuscolo che non potei fare a meno di piangere. Il vento prese a soffiare più forte, le nuvole a rincorrersi veloci nel cielo e l'aria si faceva più fresca e più buia. Percorsi tutta la strada piangendo. Avevo pietà di me stesso e andavo ripetendo sempre le stesse parole come un'invocazione d'aiuto che mi faceva tornare le lacrime agli occhi appena stavano per cessare. Signore Dio mio, sto tanto male, Signore Dio mio, sto tanto male. Così passò un'ora infinitamente lenta e pigra. Rimasi un po' nella Turfkate, mi sedevo sui gradini delle case, mi ritiravo sotto un portone quando passava qualcuno, ficcavo lo sguardo assente nelle botteghe illuminate dove la gente barattava merce e denaro, finché mi trovai in un angolo riparato da una catasta di tavole fra la chiesa del Redentore e la caserma dei pompieri. Questa volta non ero più in grado di andare nel bosco e tutto mi era indifferente. Non avevo più forze. La strada era troppo lunga. Avrei passato la notte alla meglio o alla peggio e potevo restare dov'ero. Se avevo troppo freddo, potevo fare qualche giro intorno alla chiesa, niente più storie. E appoggiatomi alla catasta, mi appisolai. I rumori della strada diminuirono, i negozi si chiusero, i passanti si fecero sempre più rari e a poco tutte le finestre si spensero. Aprii gli occhi e vidi una figura davanti a me. A giudicare dai bottoni lustri doveva essere una guardia. Non potevo vederlo in faccia. «Buonasera», disse. «Buonasera», risposi impaurito e mi alzai piuttosto impacciato. Egli stette immobile per alcuni istanti. «Dove abitate?» domandò. Per vecchia abitudine, senza riflettere, diedi il mio ultimo indirizzo, la cameretta che avevo abbandonato. Egli era sempre là, immobile. «Ho fatto qualcosa di male?» domandai, tremando. «No, niente», rispose. «Ma non sarebbe meglio che andaste a casa? Fa troppo freddo qui per dormire». «Sì, sì, sento che fa fresco». Augurai la buonanotte e mi diressi istintivamente verso la mia vecchia abitazione. Stando molto attento, avrei potuto salire inosservato. Erano in tutto 8 rampe di scale e soltanto i gradini dell'ultima scricchiolavano. Nell'ingresso mi tolsi le scarpe e andai su in punta di piedi. Silenzio dappertutto. Al secondo piano udii il ritmo lento di una pendola. Un bambino mandò un gemito, poi più nulla. Trovai la mia porta, la sollevai un po' sui cardini, aprii come sempre senza chiave, entrai nella stanza e chiusi senza far rumore. La stanza era come l'avevo lasciata. Le tendine erano scostate e il letto vuoto. Sulla tavola mi parvi di scorgere un pezzo di carta, probabilmente il biglietto che avevo lasciato per la padrona. Dunque, dopo la mia partenza, non era neanche salita. Allungai la mano verso quella macchia bianca e con mio grande stupore mi accorsi che era una lettera. Mi avvicinai alla finestra, cercai di decifrare quasi al buio l'indirizzo e lessi finalmente il mio nome. «Ho capito», pensai, «è la risposta della padrona, l'ordine di non mettere più piede in questa camera se osassi ritornarci». Uscii allora piano piano, lentamente, le scarpe in una mano, la lettera nell'altra e la coperta sotto il braccio. Cercai di rendermi leggero il più possibile, stringendo i denti per timore che i gradini potessero scricchiolare. Ma arrivai sano e salvo in fondo alle scale e raggiunsi il portone. Mi rimisi le scarpe adagio e con comodo, legai le stringhe, stetti ancora un po' tranquillo a guardare nel vuoto, sempre con la lettera in mano. Poi mi alzai e uscii. La luce d'un fanale a gas illuminava la strada tremolando. Mi avvicinai, deposi il pacco ai piedi del fanale e aprii la lettera con la massima lentezza. Un'ondata di luce calda mi si riversò nel cuore. Udii un mio breve grido, un grido di gioia insensata. La lettera veniva dal redattore capo. Il mio articolo Era accettato, passato subito alla stampa, qualche piccolo ritocco, corretto un paio di sviste, lavoro ingegnoso, uscirà domani, 10 corone. Risi e piansi, mi misi a correre per la strada, mi fermai, mi diedi una botta al ginocchio e bestemmiai ad alta voce. Il tempo passava, tutta la notte fino alla luce dell'alba girai per le strade cantando istupidito dalla gioia e ripetendo continuamente: lavoro ingegnoso, dunque un piccolo capolavoro, un colpo di genio e 10 corone. Sera, dopo qualche settimana, ero di nuovo in giro. Ero stato in non so quale cimitero a scrivere un articolo per un giornale locale. Avevo fatto le 9, incominciava ad annottare e il custode doveva chiudere il cimitero. Avevo fame, molta fame. Purtroppo le 10 corone erano durate assai poco. Non mangiavo da 2, anzi da quasi 3 giorni. Mi sentivo fiacco, sfinito dalla fatica di scrivere. Avevo in tasca un temperino e un anello da chiavi, ma non un centesimo. Quando il portone del cimitero fu chiuso, sarei potuto benissimo andare a casa, ma per il timore istintivo di quella camera così buia e vuota, che un tempo era stata l'officina di uno stagnino e dove finalmente avevo trovato un tetto provvisorio, mi misi a camminare alla ventura. E passando davanti al municipio, scesi fino in fondo ai moli presso la stazione, dove mi buttai su una panchina. Per qualche minuto non ebbi nessun pensiero triste. Dimenticai la mia miseria e alla vista del porto così tranquillo e bello nella penombra mi sentii calmo. Per vecchia consuetudine volli procurarmi una gioia, quella di rileggere il pezzo scritto poco prima. Al mio cervello dolente pareva quanto di meglio avessi scritto fino allora. Presi il manoscritto, lo tenni vicino agli occhi per poter vedere e ripassai una pagina dopo l'altra. Mi stancai e rimisi il manoscritto in tasca. Tutto era silenzio. Il fiordo pareva di madreperla argentea. Gli uccelli mi volavano davanti di qua e di là. Una guardia passeggiava lì in fondo, in su e in giù, e non si vedeva altra anima viva. Il porto era addormentato. Rifeci l'inventario dei miei averi, un temperino, un anello da chiavi, ma non un centesimo. Ricacciai la mano in tasca e ne trassi fuori il manoscritto. Era stato un gesto meccanico, un guizzo incosciente dei nervi. Ne tolsi un foglietto bianco e Dio solo sa come mi venne quell'idea, ne feci un rotolino ben chiuso ai 2 capi. Pareva fosse pieno. Poi lo gettai in mezzo alla strada. Spinto dal vento, esso si allontanò un pochino, poi si fermò. La fame incominciò a torturarmi seriamente. Guardavo il mio rotolo bianco che pareva fosse pieno di monete d'argento e incoraggiavo me stesso a credere che contenesse davvero qualche cosa. Allungavo il collo, facevo per alzarmi dalla panchina e mi invitavo a indovinare la somma contenuta. Se colpivo nel segno, era mia. E immaginavo i piccoli e graziosi pezzi da 10 centesimi, belli e lustri, dentro quel rotolino per terra, e sopra quelli le grosse corone cordonate, un rotolo di monete. Ma rimanevo seduto e contemplavo con gli occhi spalancati tutta quella meraviglia ed esortavo me stesso a rubare il rotolo. In quella udii la guardia tossire e anch'io, come mai mi venne quell'idea, anch'io tossii. Mi alzai dalla panchina e tossii niente meno che 3 volte. Volevo che mi udisse. Se si avvicinava, come si sarebbe buttato su quel rotolo, e godevo malignamente di quella beffa. Mi fregavo le mani soddisfatto e imprecavo a tutt'andare. Con un bel palmo di naso sarebbe rimasto quel cane che affogasse nel lago più ardente dell'inferno per quella birbonata. Ero intossicato dalla fame, la fame mi aveva ubriacato. Ed ecco, dopo qualche minuto, la guardia arriva battendo gli scarponi ferrati e lancia occhiata a destra, a sinistra, davanti e di dietro. Ha tempo lui, molto tempo. Ha ancora a disposizione tutta la notte. Non vede il rotolo. Lo scorge soltanto quando è vicino. E allora si ferma a guardare. Come sembra bianco e prezioso quell'oggetto. Che vi sia una sommetta, una bella sommetta in monete d'argento. Ed ecco, raccatta il rotolo. È leggero, molto leggero. Sarà dunque una piuma preziosa per un elegante cappellino da signora. Può darsi. Poi apre cautamente il rotolo con quelle grosse manacce e mi guarda. Io rido. Mi batto le ginocchia. Rido come un matto, ma senza farmi sentire. Il mio riso è muto, febbrile, intenso, come un singhiozzo. Le scarpe batterono poi nuovamente sul selciato e la guardia tornò verso il molo. Io sedevo sulla panchina con le lacrime agli occhi. Avevo il singhiozzo. Boccheggiavo in cerca d'aria. Ero fuori di me dall'allegria e dalla febbre. Parlavo a voce alta. Mi raccontavo il mistero del rotolo. Scimmiottavo i gesti della povera guardia. Mi guardavo la mano vuota e andavo ripetendo. Quando l'ha buttato via, ha tossito buttandolo via. E trovavo parole, sempre nuove parole, folli, sempre più folli, insensate, finché potei dire soldamente ha tossito. Mi sfinivo in variazioni su queste parole. Ed era già molto tardi, quando la mia allegria cessò. Mi prese una stanchezza sonnolenta, una grande spossatezza, che però era piacevole. Il buio era diventato più fitto, una brezza leggera increspava la madreperla del fiordo. Le navi, i cui alberi si ergevano neri contro il cielo, mi guardavano tozze e scure, come mostri silenziosi dalle setole irte che stessero in agguato. Non provavo più alcun dolore. La fame lo aveva smorzato. Al contrario, mi sentivo piacevolmente vuoto e nessuna cosa all'interno mi toccava. Ero lieto che nessun occhio umano mi potesse vedere. Sollevai le gambe sulla panchina e mi coricai. In tal modo potevo godermi veramente il silenzioso sentimento della solitudine. Nel mio cuore non vi era alcuna ombra, alcuna sensazione dolorosa. Per quanto i miei pensieri vagassero lontano, nessun piacere, nessun desiderio rimaneva inappagato. Giacevo a occhi aperti in uno stato di dolcezza estatica. Mi sentivo meravigliosamente lontano da me stesso. Non un suono che mi turbasse. Quel buio dolce intorno a me aveva fatto sprofondare il mondo intero e mi aveva sepolto in un riposo perfetto. Il lieve sussurro del silenzio solitario si placava con beata ansietà nelle mie orecchie. E i mostri oscuri là fuori mi prenderanno al giungere della notte e mi porteranno lontano, oltre il mare, in paesi strani e disabitati, e mi porteranno nel castello della principessa Ilayali, dove mi aspettano le meraviglie di tutti i mondi, più grandi di quelle che un mortale abbia mai visto. E lei stessa sarà in una sala radiosa di ametista, sopra un trono di rose gialle, e vedendomi entrare nella sua luce mi porgerà la mano, mi saluterà e mi darà il benvenuto quando mi inginocchierò davanti a lei. Benvenuto, cavaliere, nella mia terra. Ti ho aspettato per 20 lunghe estati e ti ho invocato in tutte le notti chiare. E quando eri addolorato ho pianto calde lacrime per te. E quando dormivi ti mandavo sogni soavi. La bella donna mi prende per mano e mi accompagna per ampie sale dove una grande folla ci applaude, mi conduce per i giardini luminosi dove 300 giovani fanciulle giocano e ridono, mi accompagna in un'altra sala tutta luccicante di smeraldi. Qui brilla il sole, musiche e cori trasvolano per gallerie e colonnati, profumi di fiori mi vengono incontro a ondate. Tengo fra le mie la mano di lei e rabbrividendo mi sento pulsare nelle vene tutta l'ebbrezza dell'amore. E mentre il mio braccio vorrebbe stringerla timidamente, ella mormora: «Non qui, andiamo avanti». E così entriamo nella magnificenza della sala rossa, che è tutta un rubino stupendo, tanto che mi getto in ginocchio commosso. Allora sento il lieve braccio di lei che mi cinge e il suo alito odoroso che mi bisbiglia: «Benvenuto, mio adorato, baciami, baciami ancora, ancora». Vedo davanti agli occhi una danza di stelle e il mio pensiero guizza in un turbine di luce. Così annegai in un sonno profondo. E la guardia mi scrollò per svegliarmi. E così fui riportato spietatamente alla vita e alla miseria. La prima sensazione fu un ebete stupore di trovarmi all'aperto, ma ben presto fui preso da un amaro disgusto. Mi venne da piangere per il dolore di essere ancora vivo. Mentre dormivo era piovuto, avevo gli abiti fradici ed ero scosso da brividi di freddo. Il buio era quasi impenetrabile. Riuscivo appena a distinguere il viso della guardia. «Forza dunque», disse la guardia, «in piedi e in marcia». Mi alzai subito. Se mi avesse comandato di ributtarmi giù, avrei obbedito allo stesso modo. Ero distrutto, non avevo più alcuna forza e quella fame che mi tormentava. «Ehi, voi!» mi gridò la guardia. «Aspettate un momento, idiota! Avete dimenticato il cappello! Bene, e ora via, filate!» Pareva anche a me di avere, non so, di aver dimenticato qualche cosa, balbettai trasognato. «Grazie e buonanotte!» E mi allontanai, barcollando. Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erminio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.